segnale. Prova. 1, 2, 3, prova. Prova. C'è un po' di ritardo. No, si sente bene, dai. Prova. 1, 3, fa rientro. Chi è sul 10, avanti? Sì, non ne prendono. Arriva prima la voce via etere. Sì, sì, ti ho sentito prima nel CB, piuttosto che su questo programma, su CB Talk. Sì, perché qua è effettiva, cioè qua c'è la velocità della luce, lì prima deve arrivare da te al ripetitore cellulare, dal ripetitore deve arrivare al server, perché noi siamo tramite un server sicuramente, non siamo in presa diretta. Passiamo dal server della Midland, poi dal server della Midland a te, da te ripetitore, insomma c'è un... come per il satellite, no? C'è un lieve ritardo. Allora, siamo un paio di giorni, siamo passati all'iperfibra di Piscari, ma mi sembra che il segnale da qua va a Cagliari, poi da Cagliari ritorna, è un casino. Però è abbastanza veloce, dai. Su 1000 mega siamo arrivati a 950. Aspetta che stavo osservando, noi siamo in due, là. C'è un altro segnale sopra Antonello, mi pare. Non me lo fa cliccare? Ah, perché è sovrapposto. A me mi dà due. No, dico sul 15, vediamo se arriva, se chi c'è là. C'è anche lui. Giovanotto, doppio. Stamattina ero dalle parti tue, ma non ti ho beccato, non so dove sia questa antenna. Ero via, come Baldetta, dai, fino in fondo l'ho fatta fino a Monteburro. Oh, io abito via Moris, dietro via Baldetta, la parallela. Vabbè, pensiamo di vederla questa antenna invece. Ne ho visto sulla sinistra, andando ci sono un paio di antenne, una 5 ottavi più alte frequenze, lì ho visto un discone e altre antenne sempre, 144 o 440. Quelle frequenze lì, dai, una qualche bibanda ho visto. Sicuramente le conosci quelle antenne. Sì, quello è Archimede, Pitagorico. E poi tu fai tutta via Malbeda, arrivi all'incrocio dove c'è via Borra, fai tutta via Borra, come finisce la via, svolta a sinistra, primo portone abitui. Vediamo, dovrebbe essere parallela se non sbaglio, la prima parallela di salendo verso su. Sì, piazza della Meridiana, c'è la presente. Io le visite a volte le faccio lì. Infatti stamattina ho beccato anche il medico che fa le analisi lì. Ma Gian Mario Salis, che è un amico mio. Ho beccato, sì, tutti e due. Ma mi sa che c'è neanche un altro, se non sbaglio. Comunque quel tipo c'ha i capelli corti adesso, un po' bianchi. Gian Mario, che è un po' bruttino. Ehi, vabbè, non è quello, no. Non ho guardato quella, la verità. Però... sembra a volte un po' impacciato, ma sembra un po' vergognoso, molto, molto educato. Sì, ha quel carattere lì. Male, ti dice, male, fa anche il dentista. No, non lo so, noi lo conosciamo perché l'azienda ci manda lì a fare le analisi, sia quelle, il drug test per la droga, urine, sangue, roba così. A volte ci manda a Cagliari, l'ospedale militare, a volte ci manda all'ospedale lì al... dove c'è le ferrovie dello Stato, sempre a Cagliari, dottor Ridi, un ricchione incallito. Tutti e due ce li ha, c'è l'appalto della Mondezza, c'è l'appalto delle guardie forestali, c'è l'appalto dei vigili urbani, da pochi di appalto. E infatti a volte c'è sempre la fila. E adesso anche la dottoressa Nettuno su alla... andando verso la strada di Osilo, che è la strada che si congiunge con... dopo il Campoleno, insomma, dai. Sì, ho capito. E va verso il serbatoio. Anche lì c'è una dottoressa che a volte ci fa le analisi anche lì. E lui oltre a quel laboratorio, al piano di sopra, c'è lo studio dentistico, ed è dentista lui. Ho l'anima. Due dimensioni fa, dai. Si divide in due, un po' giù, un po' su, va. E in più a volte su dove c'è il laboratorio dentistico fa anche prelievi, oltre quando c'è molta gente. Per dire, l'altro giorno c'erano quelli della Vetezza Urbana e hanno riempito tutto di camion della Mondetta vicino a casa. Un casino, vi lasciamo di amore. Sì, perché a volte lo fanno noi in orario di lavoro, capito? Si fermano un attimino, lo fanno anche noi gli autisti, per esempio, da noi hanno quell'ora lì, vanno e hanno la precedenza, capito? Entrano, tac, macchinisti, autisti. Noi invece abbiamo più margine di tempo, quindi se ce la fa la fila ce la fa fare. Che compagno di chi c'è? Di Marco, di quel Marco Conto. C'era anche Alessio, eravamo in quattro su CB Talk, stavamo facendo delle prove, dai. Ancora lo state usando quell'affare, io me lo tolgo. No, ce l'ho. Ci sono anche un paio, due ragazzi, no, due personaggi, dai, risultavano nella zona nostra, sul canale 2 però. Capito. Va bene, cosa ti stavo dicendo? Ieri è entrato Lupo Grigio. Capo, quindi rimanendo, tu sei sopra quel palato lì, sopra la meridiana? La meridiana rimane al centro, io sono il primo palazzo, come tu svolti da via Bonorva, che il primo palazzo abito io. Via Bonorva dov'è? Io faccio tutta via Valdetta, vado in fondo, poi faccio quel salitone, giro a destra e sono arrivato, dai. Tu sei quell'angolo lì? Il salitone via Bonorva, quel salitone che dici tu. Arrivati alla fine, svolti a destra e la prima palazzina è la mia. E si vede l'antenna, poi si vede anche se passi dall'altra parte. Allora, oggi guardavo, ero col naso per aria, non ho visto, pazienza. Sì, è entrato un po' grigio ieri. Ma io l'ho sentito per telefono e mi ha detto che è tutto a posto, che diciamo che la sera con la moglie escono, quindi di conseguenza non può entrare in frequenza, dai. Però fa ascolto un sacco di volte, ha detto. Ma l'antenna tua non la sta usando, lo sai, non la sta usando. Ha detto che va meglio quella che c'ha Bu, ma io non capisco questo. No, ho provato a metterla giù, ma è coperta, no, non prende. Infatti ho detto mettila sopra il tetto, sopra il terrazzo, e poi ti porti il cavo giù. Sicuramente funziona. Io l'ho provata l'altra volta in campagna, ero sperduto. Lì vicino alla canica e mi sentivano tutti. Poi ripeto, bisogna vedere se la tarata, l'inclinazione, come l'ha messa, un sacco di cose, dai. Dai, caro. Ciao Gianni, ricordati di disattivare, cioè chiudi il programma, proprio chiudilo, terminalo, e disattiva il GPS, perché sennò ti mangia la batteria. Il programma l'ho disattivato, però il GPS no, grazie di avermelo ricordato. Gianni, anche le donne ci sono, anche le donne mi. A me francamente dopo quasi 50 anni a Sassari. A livello psicologico. Non so, vabbè. Quello serve a voi, dai, io oramai, serve una fuga. Io già becco fuori. Dove sei, Marco? Dove sono? No, sto scherzando, fra, dai. Era una chat di WhatsApp questa, è una è la sorella di un amico questa. No, non è lì. No. Anzi, donne non ve ne so mai in quei posti. Tutti maschietti. Boh. Te l'ho detto, comprati il cane, ne conosci quanto ne vuoi. No, ci sono anche Greco L lì, sui canali in continente, dai. Sì, ce n'è una ad Almedo, una moto ad Almedo, l'unica femminuccia nell'arco di quasi di 30 km, però io sa chi è, com'è, si vuole un vicino, se c'è il marito, non si sa. Vi siete sovraccavallati, come diceva Falcone. Lasciate un attimo di bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, cosa ti fa di male? Fammi su, guarda, lascia aperto, vabbè, riprendi, fra. Voilà. La scossa mi ha dato l'antenna. La scossa? Franco, ma tu la misuri la lunghezza da un estremo all'altro? Come si dice? Da un pezzo all'altro dell'antenna, tu lo misuri, la misuri la lunghezza. Ci sono delle lunghezze predisposte, lo sai. Ma di che cosa? Dell'autocostruita? Le misure devi cercare di rispettarle quasi al millimetro, se no si sposta di frequente o ti salgono un po' i stazionari. Boh. Ma non del filo, sto parlando dell'antenna esterna, della canna, diciamo. Allora tu parti prima con la bobina, fai non so, 16 giri di diametro, poi da lì parti e c'è una misura, per esempio, fino ad arrivare alla fattore di impedenza, le misure non me le ricordo qua, fai un 1,80 m per esempio, da lì fai le saldature e ci saldi il condensatore, la fattore di impedenza. Poi da lì sali e arrivi alla metà dell'antenna, quindi a 3,45. Poi a 3,45 lì ci saldi sia il cavo che sale su, radiatore, sia il condensatore, va, lì va saldato in una maniera particolare. E poi un'altra cosa, ti dicono che volevano sapere in tira, invece non è vero. Nelle spiegazioni c'è scritto che l'antenna non vuole lasciare in tira ma leggermente molle. Allora sai qual è il problema? Io me ne accorgo perché la mia adesso è spalmata sopra la canna da pesca, non è all'interno. Con la dilatazione, siccome essendo un metallo, il rame, cresce di lunghezza, capito? Tu vedi che l'antenna, per esempio, col caldo diventa più lunga e serpeggia, diventa un serpente. Quando invece il metallo si restringe col freddo, la vedi bella tesa, capito? Ecco perché non devi metterla molto tesa, perché se abbassano le temperature va in tira e potreste fare danno, si potrebbe spezzare qualche cosa di metallico all'interno, capito? Quindi un po' di gioco deve averlo. Appunto, no, vabbè, ho sempre sentito dire che volevo messa in tira io, no, è sbagliato. Oh, Marco, riprendi. Leia, sono qua. Prima avevo detto, cosa stavo dicendo? Che abbiamo parlato in due, porca miseria, no, non me lo ricordo. No, vabbè, il GPS gliel'ho detto a Franco, quindi a posto, da. Sì, sì, ho spento, grazie. Comunque ciuccia batteria, perché già il fatto che debba tenere lo schermo acceso, perché ho deciso di tenerlo acceso, sennò se mi si spegne ogni minuto mi scoccia. Più GPS, più tutto l'ambaradan, ciuccia e la batteria, se stai due orette vedi che anche Skype me lo fa, le videochiamate, sono abbastanza pesantucce come consumo batteria, dai. Sì, sì, adesso per esempio a pranzo era carico, adesso ho consumato già il 70%, poi specialmente se lo utilizzi con molta luce il display, potresti magari abbassarlo il più possibile, quasi a zero, già risparmi un sacco di batteria. Sì, infatti magari la luminosità la puoi abbassare in modo da non consumare troppo. Aspetta che chiudo qua, pasticcio questa cosa. Comunque la comodità è innegabile, perché dovunque tu sia, altro che barra mobile, dovunque tu sia puoi comunicare. Poi se non basta il locale, te ne vai su un canale vuoto nazionale, è fatto tutto. Ecco, aspetta che accordo un po', mi abbasso un po'. Poco fa ho attaccato l'Alfalima. C'era il portatile a fianco, l'accordatore, ho toccato il PL, l'ho sfiorato e mi ha dato la scossa. Ma un pizzichino leggero, non scossa proprio forte. E diciamo mi ha dato fastidio, dai. Sì, ogni tanto un po' di dispersione lo fa, anche quando stacco spinotti, no, che c'è l'alimentatore acceso, un po' di dispersione, ogni tanto il pizzichino lo sento anch'io. No, forse perché le antenne sono vicine, una con l'altra sono attaccate, capito? Le varie delle due frequenze. Forse si accoppiano, capito? Può essere anche quello. Ma tu può essere, beh, l'altra qui te l'ha riuscita bene fra la seconda che stavi facendo. Non ti provato, adesso diciamo qua, piegata. Adesso qualche giorno prendo un'altra canna magari da Decathlon. Però la voglio provare all'aperto, perché qua non fa tararla, perché quando ha alta potenza sicuramente la casa fa da riflette il segnale di sangue stazionale per quello, perché senza potenza, usando 4-5 watt è perfetta, questi attaccando potenze mi salgono le stazionarie e quindi vogliono tarate sicuramente all'aperto. Mi sa che me ne faccio una, me la metto sulla macchina, vado al quadrato oppure a usi, non mi faccio di ex. Che bella cavolata, ti fai quei piedistalli per ombrellone o ti fai un attacco per la macchina da qualche parte, molti la incastrano nel finestrino, la fanno entrare così, quei picchetti usano per ombrellone per il mare, una mazzetta di quelle in gomma, piantano il picchetto e mettono l'antenna. Qualcuno mette anche la massa, un picchetto in terra che collega la massa per avere più piano riflettente. No, era una battuta la mia, sulla macchina si bongonuta. Se ci metto la base magnetica e basta. Però non sai cosa mi ha fatto, ci ho provato a piazzarlo, ho fatto un po' di lavoro l'altra sera, mi sono fatto tutto l'attacco per la CD Sigari, poi ho fatto un microfono dai, che era cupo, gli ho cambiato la tap, un sacco di lavoro, smontato tutto, rimontato tutto quanto, l'ho piazzato e fa quando lo piazzi in macchina, lo piazzi a casa e va benissimo. Avanti, chi è? Nessuno dalla barra mobile, come mi senti Gianni? Ti sento bene, Riccardi. Dove sei? In che zona sei? No, sto a casa tua, quasi. Ah, non vedi l'antenna? Mira, no, me ne sono accorto. Oh, qua arriva la bomba, magari arrivate da casa così. Se fai la strada, quella che porta solo al monte, girati e la vedi l'antenna. È incorporato grigio, il primo che c'è. Girato dritto verso il supermercato. Ah, sta andando via Grazia d'Aletta, si fa sapere. Sei davanti. Appagato. Ah, sì, ho capito. Tirando dritto lì, facendo la strada nuova, diciamo, che porta su al monte. Amici, vedi, ti giri e la vedi. Il primo palazzo che c'è grigio. Allora, le dico la devi fare quella salita. L'hai vista la salita che c'è? E cadi. Poi ce l'avete parato in due. Adesso lo sto perdendo, invece. No, io non lo sento per niente, Riccardino, dove sei finito? Alla chiesa del buon pastore. Io abito in via Mole, quel palazzo grigio che c'è, il primo che trovi è il mio, dopo la chiesa. Tu senti ancora Marco? Hai vista? Andare. Ah, io vai dimmi, perché se no ti faccio tutto, ti faccio bruciare la parete. Calma, ragazzo, mica sto scherzando. Beh, qua c'è fondo scala, normale che cambia, se sei sotto. Ah, da casa tua arrivi 9:20, qua sei proprio fondo scala. No, va bene, come ho detto torno a casa e parlo da lì perché alcuni non mi sentono. Non sentivi mai? Poco fa sei arrivato a 9:15, 9:20, ma hai visto, infatti mi sono spaventato questo segnalone, ho detto come mai, ha migliorato ancora? Ho pensato qualche amplificatore, invece no, eri in baramobile, dai. Che antenna stai usando? Turbo lunghe, quelle dei camionisti, mi sembra. La Turbo 2001? È presa da Costa, da Fusaro. L'abbiamo passato. Ah, ho capito. L'ho avuta anche io in macchina, c'è troppo capota quella lì. Turbo 2001. Quella è la stessa cosa. E adesso vi sto prendendo la mini turbo io, quella un po' più piccola di quella lì. C'è la mini turbo e la turbo, io mi sto prendendo la mini turbo perché quella a mettere in macchina è un po' stravagante. Mi dicevano tutti se era la macchina dell'autoscontro quando passavo. Prego. Ciao, guarda, ho questo apparecchio freddo, volevo vedere, scusando, se è sempre brutta la radio. Sì, Fabri, sempre satura, come se avessi un lineare attaccato. Va bene, quindi anche a... Ascolta, è così peggiore ancora, vero? Sì, sì, è come ieri, Fabri, non ha cambiato un... Perché cambio microfono? Se alzi la voce un po' si capisce, se parli a voce bassa neanche... a volte neanche esci di radio, proprio satura al massimo. Aspetta. Allora, questo invece è il suo microfono originale. Non dipende dal microfono. C'è saturazione lo stesso. Va bene, dai, allora via che ci... Solo l'allineamento posso controllare, altro. Fabri, a spezzoni esci chiaro. Detto due parole, si è uscito chiaro, poi di nuovo si è ripreso a saturare. Allora non è l'allineamento, allora aspetta un attimino, guarda, dimmi se toccando in qualche maniera così è cambiato qualcosa. No, sempre saturo, sì. Allora guarda così, se toccando qui qualcosa cambia qualcosa. Così sembra un po' meno saturo, ma c'è sempre la saturazione. Buonasera a tutti, no, non cambia niente qua. Non fermo neanche qua. Fabrizio, puoi fare altre prove, tipo FM? Sì, perché prima di mettermi a smanettare troppo, a rifare l'allineamento della radio, ci vuole troppo tempo. però se lo fai non lo fa vuol dire io sono una tensione, posso controllare. Aspetta, io sto toccando qualcosa così qua, perché c'è qualcosa per un po', non credo. Allora, intanto modo, aspetta, voglio capire un attimino, vai. È quasi incomprensibile qua. Come ieri Fabri, no, non ha cambiato niente. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti. L'hai visto Marco col microfono? Fiammante, mai visto una cosa del genere, tutto originale. Ogni voce, colori è? Sì, eccolo lì. Abbiamo cambiato, ho messo una resistenza sulla capsula perché era da 69K. A 69 ohm, quindi con Giulia stamattina abbiamo aggiunto una resistenza all'interno e l'ho portato così. Sembri il padre eterno, davvero, il vocione che arriva dall'alto. Ciao anche a Fabrizio. Clau, hai cambiato tonalità, infatti, il tono è diverso del microfono. Sì, ho preso un Turner P2 da tavolo, ti mando la foto, è fiammante. Ho preso la Gianfranco, nuovo, proprio mai visto così nuovo, veramente custodito benissimo, in tutto e per tutto, c'ha tutte le scritte, tutto originale, anche il suo cavetto celeste originale. Vabbè, sto parlando a bassa voce, ok, comunque va bene. Ottimo per la truffa. Poi c'è Fabrizio, cosa che non ho capito, che un apparato sta sistemando. Sta riparando un presidente Lincoln, ma vedrai, già lo trova il problema, Maragana lo trova, non si arrende così facilmente, no? Sì, questa cosa è molto testata, finché non è cavapiede. Già lo conosco, non ti preoccupare, vedrai che prima o poi già lo trova il problema, perché lì è qualcosa che hanno toccato sicuramente, chi gliel'ha dato. Hanno toccato qualcosa, perché è una cosa molto strana. Il segnale è buono, è ottimo. Poi i vati li ha già regolati, quindi la parte lì è a posto. A verificare l'apparato, come si dice, la notificazione radio. Sì, adesso già lo mette sotto, già lo controlla, va bene. Io ho messo, Marco, una resistenza da 100 ohm, capito? In pratica ho modificato sia la prestazione della capsula, ho abbassato un po' gli ohm. No, non toccasi, lo vuoi sentire? Guarda, ho iniziato alle 9 a fare questo microfono, abbiamo finito all'1:30 con Giulio, perché c'ho un po' di resistenza in una scatoletta, però non capivo qual è, perché non ci vedo un cacchio, ero con la lente, non c'è scritto niente, quindi tabella dei colori non ne avevo, quindi mi ha mandato la tabella dei colori, mi ha seguito lui stamattina e quindi ne ho trovato una, ne abbiamo provato anche una da 470, ne ho provato una da 600, ne ho provato tante. E poi abbiamo messo questa e infatti ho detto non toccare più niente, lascialo stare così. Ma la capsula è di quelle piatte a incasso dentro, quindi piano piano ho dovuto togliere dietro e c'è i fili sui originali saldati e tra i due fili gli ho messo la resistenza. E abbiamo avuto questo risultato, dai. Sono elementi in serie o in parallelo? Ah, mi hai detto da... cioè, messa... un ponte hai fatto, dai. Un filo e l'altro, no, tra il rosso e il nero. Sì. Se la metti in parallelo cambia ancora, non va bene. L'ho messa così e va bene. E c'ho il connettore a 8, capito? Adesso devo preparare il cavettino e lo devo provare col Polmar, con lo standard, con l'Elbe, col DAC. Vedere se la stessa resistenza va bene anche per quelle radio. Brecchi? Avanti. Oh, ciao Franco, buona serata. Avanti, c'è Claudio, mi sembra, poi Gianni forse. Anche Marco? Marco, ci sei? Eia, ho appena sentito il mic. E Claudio, ricordati che comunque il cellulare come registra degrada leggermente la registrazione, però un'idea te la fai, dai. Vedo che non ti è ancora arrivato comunque il messaggio. Ciao Giulio, vai. No, non mi è ancora arrivato, adesso mi arriverà. Ciao Matteo Giulio, buonasera, ben ascoltato. A avanti, riprendi, fai girare, c'è anche Gianni doppio rumo, è Fabrizio che sta sistemando una radio. Greco. Aiutatela. No, allora, questo è un suo gemello, però questo è un altro problema ancora, quindi volevo vedere, adesso provo, questo è un altro, sempre Lincoln, uguale, identico, ma ha un problema sul display questo, e volevo vedere la differenza, come usciva questo di radio. Perfetta, Fabri, modulazione normale, ma è perfetta, non è satura. Aspetta, io voglio fare un po' di per capire anche come funziona. Allora, se io schiaccio questo pulsante, ecco, dovrebbe attenuare, giusto, la radio? Certo che attenua. Quindi lì c'è un problema lì. Poi dovrebbe... aspetta, fammi capire una cosa, cosa facevo, volevo vedere un'altra cosa. Non in AM, non mi ricordo nemmeno cosa volevo fare. Volevo fare una prova. Dov'era, aspetta. Questo spinge leggermente più dell'altro, cioè, forse c'è qualche watt in più. Ah, ecco, bravo, cosa volevo dire. Modo, il modo per vedere i watt, aspetta, modo, indice, aspetta. Leggermente più forte con questo, il segnale. Aspetta. Questo proprio non vedo niente sul display, è proprio il problema che c'ha lui. Vediamo un attimino se vabbè, ci sentiamo dopo, lo apro, non vorrei che sia solo un problema di allineamento. Dai, un attimino. Siamo Fabri, siamo qua, quando vuoi. Avanti Giulio. Ok, qua. Vabbè, dai, continua ad andare sempre così e non ti fermare mai. Una volta si diceva. Va benissimo, grande radio, veramente, bella, bella, bella, bella, bella. Va bene, dai, facciamo girare. Avanti Gianni, doppio rum. Grazie al tuo supporto, altrimenti non ce l'avrei mai fatta stamattina. A papà del Re Leone, Claudio. Grazie al supporto di Giulio, lo dico veramente, se altrimenti non ce l'avrei fatta da solo. Io pensavo che per questo non si deve aiutare l'onlato. Ho sentito tutto stamattina perché l'ascolto e stavo pulendo la casa e non potevo entrare, però la radio era accesa. Tu sei un ascoltone, sei un malandrino ascoltone. Ciao Franco, ben ascoltato, avanti. Ha detto grande Giulio. Ben ascoltato come sempre, dai. Anche se oggi ti ascolto leggermente più basso, come mai? Stai usando meno watt? No, watt sono sempre quelli, io non li tocco mai, non è il caso. Va bene, no, ho solo cambiato microfono, tutto lì, ho messo l'MB più 4, niente di particolare, fra. E poi a volte mi arrivi più forte, stranamente oggi sei leggermente più basso, non lo so, magari è la mia colpa della mia antenna, dai. Non lo so fra cosa può essere, comunque interessante la radio, poi per il resto va sempre bene, non abbiamo nessuna pretesa di arrivare sulla Luna, se rimaniamo sulla Terra così stiamo meglio. Soprattutto adesso che ci hanno dato il permesso di uscire. Vero Marco? Però qualche limitazione rimane, no? Esattamente non so quali siano, ma qualche limitazione c'è sempre, no? Sempre col bavero! Sempre col bavero, Marco! Quello ormai ce lo porteremo, ce lo trascinderemo sicuramente a lungo. E vabbè, dai, speriamo bene, cosa vuoi che ti dica, speriamo che adesso hanno dato la possibilità di aprire eccetera, che nonno si riprenda a cavalcare questo virus, speriamo di no. Vai Claudio. Gappa, va bene, e lasciamo cavalcare il virus, quando cavalca già ribassa, non c'è problema, ok, va bene, dai, in ascolto. Quindi te l'hai fatta una cultura oggi anni, te l'hai fatta una cultura stamattina di resistenza e un po' di tutto, vabbè dai, comunque questo è destinato ai baracchini, adesso lo sto facendo andare qua perché praticamente abbiamo il connettore a 8, che lì Giulio dovrò chiedere lo stesso il tuo aiuto. Poi vediamo un po', già ci mettiamo d'accordo, perché sicuramente io non vedendoci molto bene, non evoco bene con quel connettore. Io ce l'ho, ma ce l'ho al contrario, porca miseria, da 4 a 8, devo farlo da 8 a 4, devo farlo da 4 a 8, io ce l'ho da 8 a 4, sì. Quindi ce l'ho al contrario, capito? Ho capito qua. Vabbè, non è un problema quello, figurati. Tu per non stravolgere adesso il sistema del microfono, lo lasci così com'è, quello del microfono, e dunque ci fa uno spezzone per poterlo adattare anche ai baracchini, perché se ti viene voglia di usarlo lì, lo usi lì, se ti viene voglia poi di usarlo nei baracchini, lo puoi fare ugualmente, non c'è problema, qua. Io la penso in questo modo. I microfoni devono essere usabili con qualsiasi radio, e dunque io sono sempre per lo spezzone, così lo spinotto originale del microfono rimane sempre tale, senza mai stravolgerlo. Io l'ho preso in questo modo. Vabbè, comunque, avanti Franco. Sì, io ho fatto invece un errore, per adattarlo al valvolare ho modificato, ho capito, questo come dici tu bastava, oppure potevo modificare l'interno dell'apparato, avevo investito un paio di fili e basta, invece ho modificato un microfono normale, ma comunque ne ho due uguali, quindi è solo per quello. Avanti Giulio. Ok, io utilizzo il sistema dello spezzone, siccome ogni apparato non è detto che abbiano gli stessi collegamenti, eccetera, uguali, assolutamente no, però stravolgere e modificare lo spinotto del microfono, secondo me, è un controsenso. Fai lo spezzone, intanto ti diventa più lungo, pure la possibilità anche di spostarlo, eccetera, e dopodiché lo puoi sempre utilizzare nei vari baracchini, perché basta fare lo spezzone per ogni baracchino se è necessario, se poi va bene anche in altri con lo spezzone fatto, beh, tanto meglio, così vuol dire ne avrai uno per più baracchini. Però toccare lo spinotto non ne vale la pena, secondo me, anche perché è più facile fare così, perché fai lo spinotto della radio più lo spezzone spelato e poi infili dentro lo spinotto del baracchino del microfono, scusa, e trovi in 5 minuti trovi il collegamento esatto. Prendi penna e carta, te lo segni come hai infilato i fili e poi ti fai la saldatura dello spinotto, così funziona alla grande, ma in 5 minuti trovi il collegamento o fra. No, pienamente ragione, infatti, eravamo quel periodo di restrizioni qua, non si poteva uscire, quindi mi sono arrangiato in casa con quello che avevo, dai. Sempre, volevo dire qualcosa a doppio rumo, avanti Gianni. Ho detto che io ho la fortuna che tutti gli apparati che ho hanno lo stesso attacco, non ho mai dovuto fare spezzone per quello, solo il coso, vabbè, l'ultimo che ti ho fatto, il microfono, il Midland, quello lì c'era a 6 punte, ma quello lì non lo uso mai in casa, se lo uso in macchina, dai. No, io per questo valvolare, il suo fa un po' di alternata, quindi dai, utilizzo uno di quelli normali, quelli palmari, l'ho sacrificato, dai. Avanti Marco. Pagato. No, cara, stamattina sì, ho ascoltato qualcosa, però stavo usando l'aspirapolvere, le camere, poi andavo da una camera all'altra, qualcosa l'ho sentita. Le prove che avete fatto, eccetera, eccetera, le resistenze che stavate cambiando, eccetera. Sì, quello lì l'ho sentito, non capivo su che microfono lo stai facendo, perché io ho acceso che stavate già facendo il lavoro. No, non abbiamo cambiato niente, abbiamo modificato l'impedenza del microfono, perché questa capsula originale Turner, questa è capsula sua originale, il microfono è tutto un originale, non è mai stato aperto, l'ho aperto io stamattina per la prima volta, è da 69, e quindi non si adatta molto bene per questo tipo di radio, capito? Allora Giulio mi ha dato questa idea e abbiamo deciso appunto assieme di mettere una resistenza, ho detto come fare, quale colore prendere, eccetera, abbiamo provato tante e siamo arrivati a questa, capito? Gianni, anch'io ho tutti i microfoni, il più 4, il più 5 e il Turner più 3, il Turner più 3, l'SBS, sono tutti a 4, ma questo me l'hanno dato a 8, quindi è chiaro che devo fare la data a 8, però va bene per tutti i keyboard, capito? Infatti lo sto usando col K, lo sto usando col 440. Però adesso le facciamo l'adattatore, no, non lo tocco lo spinotto Giulio, assolutamente, le faccio l'adattatore, se ce la faccio, se no vuol dire chiederò il tuo aiuto. E lo provo sul Bolmar, sulle radio che ho, quelle basi vintage, va bene. Vediamo un po' se c'è Marco. Riprendi tu allora, Giulio, dai. Ok. Va bene, non è un problema quello, figurati. Ripeto, basta un piccolo spezzone e dunque quello non lo modifichi, lo lascio stare così se lo vuoi usare al 440 lo puoi utilizzare anche nel 430, perché intanto gli attacchi sono quelli, lo puoi utilizzare sul 140. Però c'è da considerare una cosa, Ocla, magari tornando al discorso Baracchini, adesso bisognerebbe sentirlo se lì la modifica che è stata fatta alla capsula, ma non credo che comporti niente, perché abbiamo abbassato praticamente l'impedenza, abbiamo abbassato nella capsula, se lì esce bene ugualmente, ma suppongo di sì, qua non credo che ci possano essere difficoltà, perché prima era proprio un suono dei bicchieri quando uno trasportava dei bicchieri del vetro dentro una busta, come il cammini suona, così era prima. Va bene, dai, comunque è andata bene. Avanti, Franco. Dai, è bello sperimentare sempre. Allora, stamattina invece siamo andati a fare una passeggiata, a raccogliere un po' di ciliegie in un albero che abbiamo qua lungo la ferrovia. Qualcosa l'abbiamo assaggiata, ma non erano ancora del tutto mature, dai. Una volta mai quelle mature ce l'avamo già raccolte, siamo arrivati un po' tardi oggi. Avanti, Cla. Ehi, vabbè, adesso già fanno la sagra a Bonannaro, basta andare e si prendono le ciliegie, se no ce ne sono tante negozi, va bene. Sì, giù è quello infatti che voglio fare, ma ci vuole 5 minuti, hai visto quanto ne abbiamo cambiato in pochi minuti. Lì bisogna provarlo, anzi adesso mi metto perché c'ho uno spezzone appunto schermato che avevo comprato per Massimiliano, uno spezzone abbastanza lungo, poi invece ne ha voluto un pezzo solo che Fabrizio gli ha fatto la connessione a 8 pin per l'MB+5, me ne avevano fatto un pezzettino da 20 cm. Il connettore 8 ce l'ho e adesso lo copio direttamente dal connettore Kenwood, stessi colori, eliminando naturalmente la connessione numero 4 che è l'alimentazione 8 volts e lo proviamo, dai. Ok, allora io mi metto, poi Giulio se non ce la faccio chiedo il tuo intervento, dai. Ok, avanti Gianni, riprendi. Vabbè, adesso c'è la privilegia di provarlo con quelli, ma io non avevo immaginato che lo volevi mettere soprattutto sugli apparati, sui baracchini, grazie apparati, sui baracchini, dai, ho sbagliato. Avanti, Franco. Beh, gli altri apparati già c'ha un grande A, come si dice, fucili grossi, MC60 è un buon, ottimo microfono, forse uno dei migliori che ha fatto la Kenwood, così è, Giulio? Direi proprio di sì, quello è il numero uno, almeno negli apparati Kenwood, insieme anche al C80, anche, non solamente, e anche qualche altro, ci mancherebbe, però diciamo per il 440 secondo me il migliore in assoluto, perlomeno quello che piace a me come emissione radio, per me è il C80, cioè è accidenti, è l'MC60 per il 440 e anche per il 430. Poi non dobbiamo dimenticarci che c'è anche l'altro, il C80, che è fortissimo, però a me piace di più l'MC60. Anche nel 140, vabbè. L'ho detto, anche nel 140, sì, è vero, anche nel 140. Però poi c'è l'altro, l'80, quello lì, va bene, è anche più forte probabilmente del 60, ma a me piace di più il 60. Vai, Cla. Claudio sta facendo lo spezzone. Sta smanettando. Ah, ma si è andato a scaldare. Capita, vabbè, le cose si fanno subito, così, in fretta, perché se no poi uno si dà fretta e non le fa più. Va bene, Marco. Sì. C'era, vediamo, un segnale basso, sì. Io stavo cambiando la sabbia ai gatti e quindi mi ero sentato un attimo. Dunque, Claudio, se sei all'ascolto, ricordati che rispetto alla registrazione che ho avuto, a più bassi la modulazione, a dei bei bassi, nella registrazione i bassi non si sentono perché non ce la fa il microfonino a registrarli i bassi, ma neanche l'altoparlantino dello smartphone a riprodurli non ce la fa assolutamente. Comunque buona, caspita, mi piace abbastanza quella modulazione. Chi rilancio? Chi altri c'è? Vabbè, Giulio, vai tu. Ti ho appena rilanciato io, Marco. Sì, no, abbiamo fatto questa modifica, siccome la capsula ha una certa impedenza, e allora abbiamo modificato l'impedenza mettendoci in parallelo una resistenza, niente di particolare, per vedere se c'era qualche resistenza che andasse ancora meglio, ma io già inizialmente gli ho detto prendo la resistenza a 100 ohm e vedrai che tutto funziona alla grande, e così è stato, no, perché ne abbiamo provato anche altre di resistenze con altri valori, sì, andavano bene ugualmente, però la migliore in assoluto per conto mio è risultata quella da 100 ohm. Se ne avesse avuto una a 50 ohm probabilmente andava ancora meglio, ma non ha importanza, va benissimo così, perché prima col microfono aveva uno scrocchiare di bicchieri e di campanelline quando parlava, dunque non si capiva che cosa fossero, anche se usciva bene, sia ben chiaro, usciva benissimo del radio, però c'era questo rumore sotto abbastanza udibile, dunque il lavoro che è stato fatto, abbiamo eliminato proprio questa interferenza sottostante alla sua modulazione. Tutto lì. Avanti, Franco. Capo, dimmi che tipo di capsula monta quel microfono e quanti ohm aveva in origine? Ma non lo so, con esattezza. Lui ha detto che c'è scritto 69, c'è scritto 60, forse 690 ohm, non lo so, probabilmente così, perché non credo che fosse da 69 ohm, se sta 690, magari lo zero non c'è più, o perlomeno c'è qualche altra cosa che indica lo zero, insomma, quando si tratta di resistenze ci sono delle sigle un po' particolari che bisogna anche conoscere, per cui però abbiamo deciso di mettere quello, perché quando tu metti una resistenza in parallelo, la resistenza maggiore, quello col valore maggiore, che in realtà la capsula è una resistenza, si adegua al valore minore. Ecco come è stato, tutto lì, il discorso teorico della legge di Ohm, tutto lì fra. Avanti, Cla. È da 690 ohm, capito? Allora, originale Turner, perché c'è scritto Turner 690, sì 69, ma è 690, Giulio, cioè così come stai dicendo tu, 690K, capito? Ed è quella rotonda grande che proprio incassa in tutta la circonferenza del microfono, ed è la sua capsula originale bianca, tipo quelle grandi del telefono, capito? La sua originale, ti ho detto che è tutto originale sto microfono, tutto in originale, l'ho aperto sotto, è fiammante. Ho solo dato una spruzzatina alle lamelline, ma non c'era manco bisogno perché sono lucide. Era questo dito veramente molto bene, nuovo, dentro e fuori. 690, in pratica succedeva fra che io sto lavorando su quel cavetto, ne ho trovato uno che devo solo praticamente invertire i connettori, Giulio, e basta. Adesso ci sto provando, me li ho segnati, adesso di saldo e saldo. In pratica fra cosa succedeva? Che la mia voce, che ha molti acuti, con quella capsula andava praticamente in distorsione, cioè si sentivano questi acuti che vibravano, sembravano, come dice Giulio, dei bicchieri che sbattono, capito? E quindi con la resistenza a 100 abbiamo ridotto l'impedenza della capsula e quindi abbiamo dato meno acuti e più bassi, ed è arrivato questo lavoro, capito? Fra cosa abbiamo fatto? No, è bilanciata, è abbastanza bilanciata, c'è un po' di tutto, c'è i bassi, c'è i medi, anche gli alti, non sono eccessivi, vanno bene, quindi era una ceramica sicuramente la capsula, giusto? Sì, è una capsula ceramica ad alta impedenza, è una capsula ceramica ad alta impedenza, perché c'è anche il manuale del microfono, quindi c'è scritto, ed è veramente una grandissima capsula, veramente ottima, ottima. È chiaro che usata magari, come ha detto Giulio, in altre radio o in altri apparati anche HF, perché il connettore auto quindi sicuramente era collegato su un HF, magari anche di quelli valvolari, di quelli vecchi, tipo linea, insomma, eccetera, va bene, però con i baracchini non va bene. E quindi Giulio ha deciso così e così abbiamo fatto. Il risultato insomma è questo, ecco. No, no, avete fatto un buon lavoro. Sono quanti puoi fare dei circuiti, magari, affinché tu possa cambiare impedenza con un tastino, no? Mettere varie resistenze e far entrare in funzione in base a quello che è l'apparecchio che ti serve, dai. No, ma c'è sotto un tastino che abbiamo provato stamattina e con la capsula originale agisce. Adesso non lo uso perché in pratica l'impedenza va bene questa, capito? Fra. Ok, dai, fai girare che io mi metto qua all'opera, vediamo se riesco a togliere i fili, devo solo invertire i connettori, dai. Un attimino, Claudio, ma 690K, K sta per kilo ohm, può essere, io sto leggendo qua una capsula statica, ceramica, impedenza 230 kilo ohm, quella sarà 460, può essere così alta? Io non mi intendo di capsule ceramiche, ma se c'è K vuol dire che è kilo ohm. Sarà così, 690 comunque, non ci sono cacchi, ti può rispondere Giulio in merito perché io non ti posso dire fesserie. No, non credo che sia così alta, o Marco, sicuramente 690 ohm, perché K significherebbe 6900. Significherebbe, ci mancherebbe altro, no, assolutamente. Va bene, dai, comunque, la modifica, ma io lo sapevo che era fattibilissimo quel discorso, per cui, no, perché c'è stato qualcuno anche stamattina che diceva, no, la caratteristica, sai, come si fa, è come qualcuno interviene, è la caratteristica quella del microfono, tarne, boom, bam, un sacco di storie, vabbè, ognuno dice la sua, chiaramente. Nessuno ha l'intenzione di polemizzare, per carità, invece no, abbiamo dimostrato che avevamo ragione per come si sentiva e abbiamo fatto la modifica che era necessaria fare. Tutto lì. Avanti Gianni. Qualcuno non è uscito in radio? Gianni, parla, schiaccia. Non sono io. Allora, Brecco. Aspetta un attimino, Brecco. Vai Fabrizio. Allora, a me mi interessa sapere, vabbè, adesso questa è l'altra, questa l'ho messa a posto, questa già era semplice, era solo un regolatore di tensione, aveva problemi. Adesso, memorizzate questa radio, perché c'ho intenzione, non lo so se ho non voglia, però mi voglio guardare lo schema, avevo intenzione di aprire un attimino la LC voleva aprire, ma non dal potenziometro ovviamente, infatti vedi qui è tutto già toccato, però fare una modifica su un transistor. Però memorizzatela un attimino, aspetta io guardo una cosa, questa praticamente, aspetta provo già a toccare una cosa, non c'è già stata toccata. Cos'è, cambiato qualche cosa? 1, 2, 3 prova. Cosa vuoi sapere? Allora guarda, questa è un passaggio, questo è l'altro passaggio, aumentato o diminuito? Aumentato. Così è aumentato, 1, 2, 3 prova, non sta andando in distorsione, no? 1, 2, 3 prova. Prima ti sei abbassato, poi è aumentato di nuovo. Adesso è aumentato, vero? E si conferma. Ecco, lasciamolo così. Adesso facciamo un passaggio sia in banda laterale che in FM per vedere se è successo qualcosa. Sì, se vuoi sì. Lo fai con Giulio, che io sto facendo una saldatura. Giulio, lo segui un attimo a Fabrizio. Sì, Giulio. Giulio. C'è nessuno sul 10? Vai, vai, vuoi andare in FM? Adesso dimmi qua com'è la modulazione. Non è il massimo, però è una buona modulazione, dai. Un microfono normale. No, io voglio sapere se sta aumentando, distorcendo, lascia perdere il microfono, cioè il microfono normale. Guarda, adesso ti faccio un passaggio. Da questo passaggio qua, 1, 2, 3, prova, a quest'altro passaggio qua, come ti sembra? Sembrano quasi uguali, per me sono quasi uguali, non è cambiato moltissimo. Ti sembrano quasi uguali? Sì, sì, rifallo il passaggio. Allora, da questo passaggio 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, a quest'altro passaggio 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ma non è cambiato niente, alla fine prova, alla fine proprio, No, aspetta che lo seguo io, dai, che magari tu lo senti male, eccetera. Fabri, ti sposti al 20, dai, ho mollato un attimino, poi me li faccio i connettori. Vai al 20 che ti seguo io, dai. Scusate un attimo. Eia, anche a me sembravano uguali, solo alla fine è sparito. All'ultima parola è sparito, eia, Fra. Riprende, Fra. Giulio, ci sei, Giulio? Eia, mi sto stiracchiando, scusate. Poi devo cambiare l'olio alla friggitrice, insomma, devo preparare un po' tutto per... Non voglio cucinare tardi. Giulio, ci sei? Sì, che ci sono, come no? Certo, sì, sì, confermo comunque che è successo così. Quando stavo provando Fabrizio non ha cambiato niente, però poi alla fine è mancata la modulazione. Va bene, dai, facciamo girare. Gianni? È andato sul 20 anche lui magari? Tutti ad ascoltare ciò sul 20, io a ridiare. Siamo sempre lì. Sicuramente è andato a controllare, è un curiosone. Va bene, dai, riprendi tu, Fra. Sì, quindi le mie sensazioni erano giuste. No, io poi non è che lo sento male, anzi lo sento buonissimo, arriva forte, arriva anche più forte di Claudio addirittura. Non so da che zona stiamo durando. C'è una portante, devo ridere, una portante Santiago 7. Dai, zona, dai, diciamo ovviamente. Sono lì. Bene, all'inizio ve l'avete parlato in due, dai. Gianni, sei rientrato? Eia! Vabbè, lo vedi? Stavo ascoltando la regolazione, come la sentivo anch'io. Ma per te era cambiato, per me non era cambiato nulla. No, nemmeno per me. Vabbè, riprendi. KK, chi è entrato? Ma credo nessuno, siamo solo noi. Vabbè, niente. Riccardino non è entrato. È venuto sotto casa a vedere l'antenna. Mio amico, avanti Riccardo. Non è lui, quello è uno che sta facendo, sta mettendo la portantina a Santiago 7, poverino. Magari 7, qui è 0,5. Ma qui è 0,0, qui non lo sento proprio. E vabbè, lasciamolo fare, si sta divertendo, lasciamolo divertire, no? Che problemi ci sono? A proposito, Franco, questa radio allora ti piace sì o no? Se no mi arrabbio e cambio il microfono, No, va bene. No, è solo il segnale che mi... Ti ricordavo più... oltre il 9. Adesso sei sotto il 9. Con picchi di modulazione oltre il 9. Non lo so, magari è una mia sensazione. Questa è la più forte, eh. E chi è quello? Chi è quello? E adesso più forte, oltre il 9 adesso, Non è che qualcuno che non sta uscendo di radio, boh. Chi è che non sta uscendo in radio? Avanti? Pardon, c'avevo il mic a zero. Buonasera a tutti. Ah, è Giulio. Hai visto, risolto l'enigma. Ciao. Gianni, come ti arrivo adesso? Arrivi bene. No, rispetto all'altra volta. Rispetto all'altra volta mi arrivo fino a 9.30. Questa è arriva fino a 9.30 l'apparecchio, non va di più. E Giulio, a te come ti arrivo? 9.15, Tony. 9 più 15. E adesso? 1, 2, 3. Adesso è 9, già funziona quella cosettina, già funziona, era grande anche. Franco, va bene allora. C'è anche Franco con noi, mi raccomando avanti. Vai Franco per Tonino Kawasaki. Cafa, ciao Tonino Kawasaki, ben sentito. Adesso, all'inizio no, Ciao Franco, anche a te. Niente, è uno piccolino per macchina, l'ho adattato qua, con quelle armeggiatore da 30 ampere. Da quant'è, lo puoi dire? 60 watt, non di più. Eroga 70, dai. Ma non lo so di preciso, ma ce l'ho fatta, la sto per saperlo. Cos'è, 747 tu? 747, cosa hai detto con 747? Cos'è, un giubbo? Un amplificatore lineare. No, è uno di quelli andanti proprio che mi hanno regalato. Ma va benissimo, Tony, va benissimo. Non c'è neanche la marca perché adesso l'ho verniciato, poi è arrivato un casino comunque. Va bene, non ce ne frega niente della marca, è interessante che funzioni bene, e va alla grande, veramente. Ma è attaccato adesso, Tony? Tonino, è attaccato adesso? No, è staccato. Guarda lì, adesso è attaccato. 1, 2, 3, prova. E abbassa la radio. Ti abbassa un bel radio, però il segnale già sale, dai, va bene. Ok, dai, sono sul 20 in ascolto, sto seguendo Fabrizio. Sto anche lavorando sul mio microfono. Ok. Ma il Turner, Tonino, non è buscato? Non l'ho attaccato il Turner. Ah, come va? È che non ha giugato, c'ho dolore lì nel disco, ormai sto male. Sto male, non sta di là. No, come dire voi che fa niente, anche tu che sto modulando a fare. Vabbè. Vai a fare un po' di fisioterapia. Devo fare giornata magnifica, devo andare a finire il telefonare, fine mese giù a Pantalona, mi dà l'appuntamento, 150 euro faccio la risonanza, poi con la risonanza prendo appuntamento con il professore di Cagliari, scendo giù, iniziano la schiena e non ho più dove ti spingisco. Se la facevi da Origo pagavi di meno, io ho pagato 140. Ho già telefonato a Origo e mi ha detto la circonferenza che avevo io, ma ha detto no, non abbiamo le macchinari adatto, ha detto ma sto con Marco Giccia Bomba, quindi quella circonferenza loro lo fanno. Ah ecco, ma io ho fatto al femore e per quello ce l'ho ben fatto. K-K. Mezz'ora di risonanza magnifica ho dovuto fare. Ma io l'ho fatto la strada civile, una mezz'ora, entravo giusto nel tubo e non potevo neanche spostare il gomito, quindi la testa usciva fuori all'altra parte. Io non so cosa sono i dolori, non dire a me che c'era poco tempo fa avevo dolori da non dormire manco la notte. No, che non è che un cane, poveraccio. Vabbè dai, riesco a sopportarlo perché mi ha seduto fuori campo. Vabbè, succede. Chi c'è la vicciaia, ma la giusti. Sta parlando uno giovane. Ma sto dicendo anche a me, non è che sto dicendo in generale, non per te, no tu. Già lo sappiamo che sono vicchio, dai. Vicchio, ci sono pure i rucci. Però non le dimostro l'età che ho, ancora me la capo abbastanza bene. E cosa posso dire io allora? Beh, insomma, ve la vedete voi, ma siete giovanotti ancora, voi, lascia perdere, Tony, caspita, non è possibile. Quindi mi sono 17, 18 anni, quindi mi sono... cosa vuoi che sia? Non è molto, no? Caspita. Vabbè, vedi visto di altri 18 anni, scusa, quanti anni c'hai giù? 78 ne ho compiuto il mese scorso. Non è vince già 18 anni, non so quanto ne ho io. E cosa vuoi avere tu? 60, 65, avanti. 60 sì, quindi non so più 18 anni di differenza, 17 sono molto di meno. Va bene, dai, ma sei sempre un giovanotto. A 66 anni sei sempre un giovanotto, Tonino, non è un problema quello. Grazie Giulio. E allora Gianni è un pizzito. Franco, e tu invece? Ma Gianni è un vecchio padrono. Neanche a 55. Beh, chi ti pensi davvero? Ah, Tony, Gianni è un vecchio padrono. Così si dice a Sassari, no? Io sono in rodaggio ancora. Sassari dice un bel ricorso. Ci sono gli anziani che quando dici che il vecchio, dici vecchio, mi lascia il vicino di Nandi. Dice pure vecchio cadroccio.